Bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Ci racconti, ci sveli un po' le virtù meno conosciute o nascoste di quei prodotti che abitualmente portiamo in tavola. Prodotti, noi lavoriamo sempre, insistiamo molto sul prodotto di stagione, perché la natura sa quello di cui abbiamo bisogno, e l'inverno è una stagione molto ricca di verdure che hanno tutto quello che ci serve per far sì che il nostro organismo funzioni bene, funzioni al meglio. Ma professore, lei ci stupirà con effetti speciali. A proposito di cuore, Ciro, qual è la pizza del tuo cuore? La pizza del mio cuore è il simbolo nostro della napoletanità, anche della margherita, no? Perché la margherita? Uno, perché rappresenta Napoli. Due, perché rappresenta l'Italia, con i nostri sapori mediterranei, con il nostro gusto mediterraneo, dal latte al pomodoro, a tutti i nostri valori. E quindi da lì che veramente dal rosso passione il cuore pulsante dei napoletani, no? Con la forza dei napoletani che riusciamo a mettere in tutto quello che facciamo, in termini l'arte di arrangiarsi, la chiamiamo a Napoli, ed è veramente una cosa molto importante questa qui. E proprio di colori, sapori, profumi e molto altro parleremo oggi per questa puntata della Bufala in tavola. Rimanete, intanto buongiorno, buona domenica dalla vostra Nico, che è ancora qua alle 12 appassionatamente insieme. We watch the children playing beside the Christmas tree. Allora, noi oggi vogliamo giocare d'anticipo contro la rovescia per il giorno di Natale. Sappiamo tutti, lo sappiamo, questo ci rattrista, il Natale sarà un Natale diverso dagli altri, ma diverso, noi dobbiamo renderlo comunque speciale, possiamo renderlo unico. E allora come si fa? Ci muoviamo per tempo, lo organizziamo, curiamo tutti i dettagli, prendiamo questi giorni che ci separano dal Natale come una sorta di allenamento per vivere anche questi giorni come una sorta di tappa di questo viaggio che ci farà uscire da questa situazione. Per questo accanto a me oggi c'è un amico speciale ormai della nostra trasmissione, il dottor Stefano Erzegovesi, il nostro medicuoco quasi cuoco. Dottor Erzegovesi, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Dottor Erzegovesi, perché allora il medicuoco quasi cuoco? Perché noi vogliamo sempre prepararci delle cose buone, scoprire anche sempre nuove ricette che ci fanno stare bene e anche appagano quel desiderio di bellezza, di colore, di gusto, di armonia che ci piace molto. Ma io oggi voglio sfruttare il nostro medicuoco quasi cuoco anche per entrare un po' nella nostra testa. Dottor Erzegovesi, lei è anche psichiatra e quindi lei ci aiuterà a capire se noi davvero possiamo, con la cura dei dettagli, con piccole attenzioni, prepararci a queste festività cercando di renderle speciali. Saranno diverse, ma saranno comunque speciali, essenziali e uniche. Dottor Erzegovesi. Assolutamente, consideriamo che oggi quindi sarò un po' psicocuoco e sono felice psicocuoco, di ma ormai lei si è vero. Ecco, il medicuoco quasi cuoco, psicocuoco. Ecco, su questo io ricordo un evento che mi aveva molto colpito di un cuoco giapponese che aveva preparato con dei movimenti estremamente lenti e con una grandissima attenzione e cura ogni singolo dettaglio un piatto di riso bianco, cioè una delle cose che più noi colleghiamo al piatto da ospedale, diciamo così. E su questo assolutamente... Lei ha già la suoneria di Natale? No, ma aspetta, stavo spegnendo tutto. Però sembra un po' natalizia anche. Sì, ci ha fatto un po' un vero? Così, un accenno sa perché lo dico? Perché noi parleremo anche di suoni del Natale, perché anche quelle aiutano l'atmosfera. Noi siamo in cucina, ci mettiamo una bella musichina natalizia, quindi bene anche la suoneria. Mi scusi, torniamo al nostro riso bianco. Ecco, stavo dicendo, questa apparentemente eccessiva cadenza di gesti, che però vuol dire veramente l'idea della preparazione. Mi piaceva molto quando prima diceva prendiamoci qualche giorno in più, anche se sarà un Natale magari più isolato, per dedicare attenzione, ma quindi attenzione consapevole a quelle piccole cose che per un riso possono essere sciacquarlo bene con le mani, quindi proprio toccarlo e fare passare i chicchi tra le mani per poi risciacquarlo, vedere l'acqua che cambia di colore, poi dopo cucinarlo lentamente. E quello è sempre un piatto di riso, ma se diventa il nostro piatto di riso, quindi qualcosa che ha a che fare con la cura di noi e la cura delle persone che ci sono accanto e che quindi ci vogliono bene, a cui vogliamo bene, anche quella che può essere l'apparente banalità di apparecchiare una tavola, di preparare il merluzzetto per la vigilia piuttosto che la scarola come nella tradizione napoletana che mi è cara. Ecco, in ognuna di queste cose sistemare una tavola dove andiamo a valorizzare i colori, gli oggetti e tutto quello che può essere poi nel reale significato di apparecchiare, che non è semplicemente una tavola, ma è allestire con la miglior cura possibile quello che poi ha a che fare con i nostri affetti e i nostri momenti importanti. Ecco, questo credo che sia una cosa, cogliamo questa occasione e felice di poterla condividere con Vero, tutti gli ascoltatori perché, della Buffa in Tavola. Perché, dottor Arzegovesi, la cucina è un laboratorio straordinario. Ci sono degli studi, che sono quelli di neuroscienze, che raccontano proprio che cosa succede quando ci mettiamo a cucinare, sperimentiamo, usiamo le mani, tagliuzziamo, prepariamo, soffriggiamo, impastiamo, sentiamo i profumi. Ecco, allora in questa settimana, in questi giorni che ci separano dal Natale, facciamo questa sorta di allenamento. Approfittiamo anche dei momenti in cui prepariamo qualche cosa di buono per noi o per i nostri familiari, a prepararci, a in qualche modo ritrovare anche, dottore Zegovesi, mi aiuti, quella gioia, quella serenità che sono necessarie, anche e soprattutto nei giorni che sembrano buio. Quindi condiamo le nostre giornate come? Con cura, con amore, con gioia, e la cucina diventa una sorta di laboratorio. Naturalmente a capo di questo laboratorio noi mettiamo il nostro medicuoco quasi cuoco, Sava Sandir, e allora pronto. Noi, ecco, pronto. Pronto, tra l'altro io ho sentito quella sua suoneria che mi sembrava un po' una canzone di Natale, io ormai metto a casa solo canzone di Natale, giusto, più quest'anno che l'altro, periodo. Perché mi sento, poi ballo, poi impasto, insomma metto a frutto tutte le indicazioni che sento dagli amici, dagli esperti che intervengono nelle varie trasmissioni. Lei ha una canzone di Natale, proprio quella del cuore, che le piace più di altri, che possiamo mettere un po' di sottofondo mentre siamo in cucina, dove scopriamo oggi. Io ne ho due, una proprio la mia, che mi ricorda quando l'avevo imparata proprio da piccolissimo, che era Tu scendi dalle stelle, che proprio insomma una così, io anche solo a parlarci un po' mi commuovo, mi viene un po' il groppone. Il pensarmi così con questa, come dire, con lo sforzo ma contemporaneamente la passione, perché non era come imparare una poesia delle elementari ai tempi, ma era come imparare qualcosa comunque che aveva un significato molto forte, quindi quello sicuramente. Più moderno invece, più penso a mia figlia che cantava Jingle Bells chiamandolo Jimbom Bell, cioè come dire italianizzata, e questo invece più del cuore, più bello recente, però allora bene, e comunque anche la musica ci aiuta, musica, profumi, colori del Natale. Noi, proprio perché questo Natale sentiamo sempre ripetertelo, sarà un Natale triste, sarà malinconico, bene, noi coccoliamolo, prepariamolo con estrema cura, non facciamoci mancare niente, basta davvero poco, pizzichini, anche la musica naturalmente. Voi scriveteci qual è la vostra musica di Natale preferita, noi abbiamo i nostri social, come dice Laura Vanossi, a vostra disposizione. Ci fermiamo, c'è Andrea Roccabella con noi, chissà se ruberà qualche ricetta del nostro medicuoco quasi cuoco, possibile. Ci fermiamo, ritorniamo subito dopo insieme e ci mettiamo al lavoro. La bufala in tavola. Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. E siamo tornati con il nostro medicuoco, quasi cuoco, psicocuoco, il dottor Stefano Arzegovesi. Perché? Perché in questa puntata che precede il Natale ci mettiamo in cucina, ma usiamo la nostra cucina come laboratorio per, dottor Arzegovesi, posso dirla così, per tirarci su. Perché in cucina sperimentiamo, ci mettiamo al lavoro, prepariamo, addobbiamo, e anche questo ci può aiutare a vedere un Natale diverso, ma ad accettare questo Natale diverso come un passaggio, come una tappa di un viaggio che ci porterà fuori da questa situazione. Dottore Arzegovesi, io partirei dal colore, perché lei mi insegna che il colore ha un effetto particolare sulle nostre emozioni. Le nostre tavole d'inverno possono essere anche molto colorate. Consideriamo che ci sono ormai numerosi studi scientifici che collegano alcuni colori proprio a una modifica della nostra capacità di sentire il sapore del cibo e quindi di apprezzarlo in maniera diversa. Se ci fate caso, in molti ristoranti anche della grande distribuzione prevalgono, ma perché hanno seguito questi studi scientifici, i colori caldi, soprattutto del tono del giallo e del rosso, proprio perché il colore caldo va ad attivare la nostra corteccia cerebrale in un'ottica che è un'ottica di aspettare e di prepararsi a qualcosa di piacevole dal punto di vista del palato e piacevole dal punto di vista dell'olfatto. E quindi Natale deve esserci l'oro, ma l'oro chiaramente non è un cibo, e quindi apparecchiamo con qualcosa che richiami un colore metallico luccicante la nostra tavola. E sicuramente un rosso, che deve essere un rosso ugualmente, ecco, teniamo conto, rispettiamo il nostro cervello, nel senso che il nostro cervello è nato e si è evoluto per apprezzare gli stimoli sia visivi sia sensoriali non eccessivi. Perché? Perché se lo stimolo sensoriale è eccessivo, il nostro cervello automaticamente è deputato a mantenere l'equilibrio, quindi la prima cosa che fa è difendersi cercando di sentire meno quello che accade. E quindi sbizzarriamoci con i dettagli, basta magari una candela rossa, basta magari una piccolissima guarnizione su un pezzettino di cioccolato che può richiamare un colore, certo, luccicante, e già quello comunque il nostro cervello sarà in grado di apprezzarlo senza bisogno di bombardarci troppo da un punto di vista sensoriale. E il colore naturalmente lo possiamo portare anche in tavola, e credo che sia proprio anche un'ottima idea. Bianco, rosso, verde, dottor Arzegovesi, lei mi sa dare un'idea per un piatto con questi colori? Ma il mio bianco, rosso, verde preferito, che però è poco natalizio, ma io comunque lo uso sempre, c'è una tradizione napoletana che sto cercando di sforzare anche al nord, che è di iniziare il pasto della cena della vigilia con degli spaghetti aglio, olio, peperoncino colorati con un peperoncino fresco molto abbondante e con un pane tostato, quindi che dà questa nota di croccantezza e anche di profumo che va ad aggiungersi all'olio, all'aglio, e poi con una forte spolverata di prezzemolo alla fine. Ecco, questo un bianco rosso verde con verde prezzemolo, rosso peperoncino e bianco pasta e aglio, diciamo che è il mio pasto della vigilia preferito. Il pasto della vigilia è il preferito del dottor Arzegovesi, a cui possiamo aggiungere qua, poi lei mi dice la Nicola sa tutta, ma gliela rivendo, anche gli ascoltatori di La Bufala in Tavola l'hanno particolarmente apprezzato, il suggerimento del professor Cimino, verace napoletano, di aggiungere un tarallo sbriciolato. Ta-ta! Questa non la sapevo e la gliela rubo, perché la Nicola sa tutta, ma ecco, più ancora del solito. Vede? No, beh, è una bellissima idea, perché c'è croccantezza, poi il tarallo è, certo, un impasto molto ricco, bellissimo. Lei mi ha detto una parola, croccantezza. Ecco, allora, in questi giorni che usiamo come allenamento, in cui utilizziamo la tavola e la cucina come cura dei dettagli, che ci fa assolutamente bene, ci porta anche un po' la mente altrove, dottor Erzegovesi, dobbiamo anche un po', no? Metterci un po' quel certo. Che ci vuole. Lei ha parlato di croccantezza, quanto sono importanti i suoni? Ecco, questa è una disciplina molto recente, perché tendenzialmente non si collega più di tanto all'effetto uditivo, quello che ha a che fare con l'esperienza sensoriale del cibo. In realtà l'effetto uditivo è importantissimo sia per quello che riguarda il suono dell'ambiente e quindi tutto quello che ha a che fare con il nostro cervello, dicevamo prima, non ama gli stimoli cronicamente alti e forti, quindi è molto importante che l'ambiente in cui siamo come suono sia un ambiente molto tranquillo, ma poi c'è invece il suono che noi facciamo quando mangiamo, quindi la croccantezza, c'è un croccante proprio studiato poi nei laboratori di neurosensorialità, che è il cosiddetto croccante cedevole, che può essere il croccante della patatina piuttosto che del tarallo, diversamente dal croccante tenace, che può essere invece del pane raffermo o di qualcosa di troppo duro. Ecco, il croccante cedevole, se ci pensiamo, fa un crack che sicuramente ci stimola da un punto di vista uditivo e che ha un effetto che è specifico essere un effetto di incremento dell'appetibilità. Pensiamo, insomma, scaglia la prima pietra chi di noi non ha gustato la pelle del pollo arrosto croccante, anche quello è un croccante cedevole che dà comunque un effetto che è contemporaneamente gustativo, olfattivo e uditivo. Dottor Erzegovesi, e soprattutto negli ultimi tempi il croccante possiamo anche abbinarlo al consumo di noci, nocciole e mandorle. Di solito, per tradizione, la frutta secca si consumava al termine del pranzi di Natale, delle pranzi delle feste. Adesso invece i semi oleosi, la frutta secca, sono entrati un po' nella nostra dieta quotidiana, regalandoci tanto bene, come lei tante volte ci ha ricordato, e regalandoci questo crack crack sotto i denti, che aiuta, viene anche sfruttato, vero dottor Erzegovesi? Proprio perché a supporto del... importantissimo, cioè la croccantezza della frutta a guscio ci richiama da un lato quell'effetto sensoriale che dicevamo, ma poi c'è questa specie di magia per quello che riguarda la frutta a guscio, i semi, che se anche noi ne mangiamo una quantità importante, come può essere una trentina di grammi al giorno, diciamo una manciatina, di fatto la prima obiezione che tutti mi dicono è: ma caspita, 30 grammi al giorno, chissà com'è calorica e quanto questo incide. In realtà il tipo di fibra presente, il tipo di antiossidanti, di sali minerali presenti oltre ai grassi fanno sì che questo apporto aggiuntivo di frutta a guscio ha a tutti gli effetti un effetto neutro per quello che riguarda il peso, cioè non solo non ingrassiamo pur mangiandola, ma a volte un po' dimagriamo, probabilmente perché in questa grande appetibilità, in questa grande sensorialità ci fa mangiare meno di altro e quindi magari il nostro amico Medicuoco Quasi Cuoco ce l'ha infilato un po' tra le righe, cioè così in questi giorni possiamo mangiare la frutta secca croccante, quindi ci ricorda comunque sempre una cosa piacevole, e nello stesso tempo ci teniamo un pochino in forma prima del Natale, che sarà un Natale, è vero, diverso, ma noi lo vogliamo fare bello. Possiamo farlo ispirandoci anche ai piatti della tradizione della nostra casa, dottor Erzegovesi. I ricordi sono importanti. Lei citava la scarola napoletana, che è un piatto tipico del Natale. Ecco, riscoprire, adesso magari abbiamo più tempo per stare a casa, riscoprire dei piatti della nostra famiglia. È un modo anche per stare in famiglia, anche se non possiamo riunire le famiglie, dottor Erzegovesi. Qua ci vuole lo psicocuoco. Lo psicocuoco vi dice che il ricordo, inteso come la possibilità che le sensazioni che noi troviamo e che potremo trovare al pranzo, alla cena di Natale, vanno ad attivare con una magia, che è una magia, come dire, che ha impegnato i letterati prima ancora che i neuroscienziati, che è la magia di riattivarci dei ricordi. Il mio consiglio è: non aspettate di essere a tavola e di mangiare delle cose per riattivare i ricordi, ma fatevi raccontare dalle persone più anziane della vostra cerchia familiare, delle vostre amicizie, fatevi raccontare cosa mangiavano e che gli piaceva molto quando erano piccoli, nei periodi delle festività. Io ho avuto dei racconti che mi hanno fatto spaziare a volte in Italia ma anche nel mondo come tipo di piatti, ma con la sensazione di qualcosa che molto più che l'atto del nutrirsi mi ha sempre richiamato l'atto dell'emozionarsi, che comunque è una componente che va, che secondo me va coltivata, e questo, questi giorni usateli anche per coltivare questo tipo di racconto di questi ricordi. Riportiamo a tavola i piatti del cuore della nostra famiglia. I suoi quali sono, dottor Arzegovesi? Io sono mezzo milanese, un quarto milanese, un quarto bolognese e mezzo napoletano, e quindi come dire, io spazio su cose abbastanza ricche. E io ho questo ricordo, devo dire che io non ho mai mangiato più di tanto carni grasse, ma proprio perché non c'era l'abitudine in famiglia, però io ricordo questo racconto che mi faceva mio papà, erano poverissimi ai tempi a Milano, dell'oca di Natale, no? C'era questa cosa, e quindi io ho questo ricordo del suo racconto come di un senso, di un'abbondanza che richiamava poi una sensazione di grassezza, che però era la grassezza che si sentiva una volta all'anno, cioè non era una grassezza di tutta la vita. Piatti che hanno intorno una magia. E c'è sicuramente la magia dell'attesa, ricordiamoci che l'attesa, anche questi poeti ce l'hanno detto molto prima che i neuroscienziati, l'attesa ha a tutti gli effetti la capacità di attivare tutta una serie di circuiti neuronali che sono poi i circuiti neuronali che hanno a che fare col piacere vero. Ricordiamoci che il piacere vero non si spende come il piacere un po' anestetizzante, come una scarica rapida. Il piacere vero si attiva su una base di preparazione legata all'attesa, che poi dopo sfocia in una soddisfazione che dura a lungo e che quindi poi ci lascia tranquilli a lungo, e quindi che non ci porta a doverci, come dire, drogare nuovamente rapidamente di nuovi stimoli. Questo secondo me è qualcosa che va cercato. Per questo noi ci diamo il tempo e abbiamo proprio dedicato questa puntata per dare alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo piccoli suggerimenti per fare tutto con calma. Come una grande festa, noi l'apparecchiamo proprio nel dettaglio, giorno dopo giorno, una piccola cosa, al di là di quello che metteremo in tavola, sarà una cosa sicuramente buona, ma l'attenzione e la cura ci aiutano, in questi giorni ci aiutano, e quindi noi lo facciamo. Ci facciamo anche una pausa nel frattempo, ma ritorniamo subito dopo insieme. Il nostro medicuoco, quasi cuoco, psicocuoco, si ferma ancora un attimino con ma noi? Ma volentieri, vi tengo compagnia. Ma questa è una doppia festa. Allora, pausa e torniamo. La bufala in tavola. Meraviglia, ma è meraviglioso, non sentite la musica che ci entra dentro, che parla al nostro cuore, noi la usiamo per accompagnarci. Noi siamo in cucina adesso insieme al nostro medicuoco quasi cuoco e al nostro psicocuoco, il dottor Arzegovesi. Usiamo questi giorni per lavorare in cucina, preparare qualcosa di buono, aggiungere dei dettagli alla nostra casa, perché questo Natale così diverso resti comunque un Natale importante, un Natale che noi possiamo vivere con tutto il cuore. Chi può condividerlo con i familiari con cui convive abitualmente sarà ancora più essenziale, più importante. Quindi non dimentichiamoci i dettagli, la cura dei dettagli diventa una sorta di cura di questi giorni. Dottore Arzegovesi, ho detto bene? Perfettamente, proprio il senso del tempo gustato con lentezza e con attesa. Questo prepariamo proprio il nostro cervello a, a respirare ampiamente e quindi poi a godere di un piacere che può essere un piacere semplice. Come dicevamo prima, gli stimoli troppo forti e troppo intensi e chiassosi non piacciono al nostro cervello. Recuperiamo i ricordi, profumi, tradizioni della nostra casa, piatti della tradizione hanno un senso ancora più profondo quest'anno. D'altronde il Natale, ce l'ha raccontato anche il dottor Zegovesi, è sempre il pranzo di Natale associato, no? A qualche cosa di magico, di straordinario, di qualche cosa di buono che fa famiglia, fa amore, fa affetto, fa casa. E il pranzo di Natale, tra l'altro, è così importante che trova spazio anche nella letteratura. E a proposito di 25 dicembre, ci sono dei libri che fanno Natale proprio solo così, a dirli, a nominarli. È il caso del classicissimo Canto di Natale, che ha avuto tante versioni anche cinematografiche, sicuramente ne avrete visto qualcuno anche voi. Bene, Marina Marazza, che saluta, che è in linea con noi. Marina, bellezza. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono felice, mi fai un po' Natale, storica e scrittrice. È con noi oggi per svelarci oggi un risvolto culinario legato sia alla tradizione inglese che alla storia personale di Charles Dickens. Allora, che ci racconti, Marina? Beh, prima di tutto del vecchio Charles, quest'anno si celebra l'anniversario, ai 150 anni dalla morte, ricordiamocelo. Mi pareva molto coerente con tutto il discorso che è stato fatto anche fino adesso, no? di mettere l'amore, come diceva giustamente, lo dico in maniera ovviamente molto meno scientifica di quello che ha fatto il dottore, ma voglio dire di metterci sempre l'amore in questo Natale, in queste cose che facciamo, e mi piaceva andare a riprendere la storia del vecchio Scrooge, che tutti più o meno conosciamo, no, Nicoletta? Certo. Perché è un personaggio talmente noto che ha ispirato perfino lo zio Paperone della Disney, no? Anche il Scrooge, no? Che si rifà proprio al protagonista del Canto di Natale di Dickens. La sua storia è una storia famosa. C'è questo vecchio che vive da solo, avaro di denaro, ma soprattutto di amore, no? Nei confronti di se stesso e degli altri, finché non vengono a trovarlo i fantasmi dei Natali passati e gli fanno capire quanto lui stia sbagliando proprio tutto. E a proposito di pranzi di Natale e di riferimenti culinari, uno di questi fantasmi lo porta a sbirciare il pranzo di Natale a casa di quello che è un po' la sua vittima proprio preferita, il suo impiegato, che lui sfrutta in una maniera orribile, lo sottopaga, lo fa lavorare al freddo. Questo buon uomo, questo Bob Cratchit, che ha moglie e figli, uno dei quali tra l'altro il piccolo Tim è malatino e zoppettino. E che vede? Ma dunque Scrooge, a casa dell'impiegato, portato in questa maniera fantastica dal fantasma, vede proprio la tavola di Natale di questa famiglia umile, perché ovviamente di soldi ne girano pochi, no? Il padrone è avaro. E però per Natale Bob è riuscito a trovare un'occhetta, un'oca modesta. Dottor Erzegovesi! Ma dottor meraviglia! No, sai perché? Ma... perché il dottor Erzegovesi mi ha parlato proprio dell'oca. Allora, l'occhetta è il mio papà. L'oca del papà di Stefano Erzegovesi. L'oca del papà, vede come fa l'umile famiglia Cratchit. E vi leggo una scheggia, due righe proprio di Dickens, che ci racconta, quindi ci dice anche come la cucinavano quest'oca, come la mettevano in tavola, qual era il menù di Natale di una famiglia inglese di quel periodo, povera ma che faceva del suo meglio per imbandire una tavola di Natale. Un'oca simile non si era mai vista. Papà Bob disse che secondo lui un'oca del genere non era stata cucinata mai. Accompagnata dalla salsa di mele e dal purè, il pranzo era sufficiente. Anzi, come diceva per consolarsi la signora Cratchit guardando un ossicino rimasto nel piatto, non erano neanche riusciti a finirla. E erano tutti sazi, specialmente i due piccoli Cratchit, che si erano rimpilzati di salvia e di cipolle. E ora, cambiati i piatti, la signora Cratchit andò a prendere, ovviamente, il Christmas pudding per portarlo in tavola. E quindi vediamo un po' di queste cose tipiche, no? L'oca arrosto con la salsa di mele e il purè e ovviamente il tipico budino natalizio inglese di Natale. Quando Scrooge capisce il suo errore, diciamo la sua avarizia, smette di comportarsi da varaccio, farà portare i Cratchit non un'oca, ma addirittura un tacchino gigante. E lo dice proprio Dickens nel libro, grande due volte il piccolo Tim, il bambino malato, tanto che ci vorrà addirittura una carriola per trasportare il tacchinone fino a casa dei Cratchit. Il tacchinone, dottore Rezegovesi, mi faccio un commento da medicuoco, quasi cuoco, psicocuoco. Beh, qui la, come dire, l'idea della festa che in quelle situazioni, come poi dicevo anche per il mio papà, era l'idea di una cosa esageratamente abbondante sulla base invece di una quotidianità molto povera. Però mi piace anche questa finezza della salsa di mele, che vuol dire aggiungiamo sempre, quando mangiamo un piatto molto grasso, come può essere chiaramente l'oca, quindi parliamo di grassi saturi, aggiungiamo sempre qualcosa di acido. Quindi una salsa di mele, una senape, una salsa a base di aceto, perché sicuramente aiuta a, a poter digerire un po' con più facilità questo tipo di piatto. Marina, tu lo sapevi? Quindi andiamo di salsa di mele, andiamo di senape, di qualcosa di acidulo. Senti, ma tra l'altro Dickens descrive molto bene i piatti, con una cura particolare. Anche in altri punti del libro hai perfettamente ragione, Nicoletta. Lui era abituato a mangiare bene perché sua moglie Catherine era una brava cuoca, tanto che butto lì una curiosità che magari piace. Lei ha scritto, la signora Dickens, che nessuno conosce, cioè tutti conoscono Dickens, la signora Dickens meno, lei ha scritto un ricettario che è diventato famosissimo a metà 800, che si intitolava proprio What Shall We Have for Dinner, che cosa si mangia, diremmo noi, che è stato ristampato più e più volte. Voglio dire, non era solo Charles l'autore di bestseller in famiglia, anche la signora aveva fatto un bestseller fatto di ricette. Marina, sei straordinaria, ci racconti sempre dei dettagli che così mi piacciono tanto, ed è stato bello averti con noi, perché noi proprio oggi, la puntata di oggi è proprio dedicata alla cura dei dettagli, quindi sapere anche dei risvolti, di storie, insomma, accende il cuore. Marina, qual è il tuo piatto di Natale preferito? Tu che sei una storica scrittrice, come te la cavi in cucina? Ma io me la cavo abbastanza bene in cucina. Non avevo dubbi. Sempre meglio degustare che preparare, però sono capace anche di preparare, non a dei livelli, però insomma mi arrangio e sono molto legata alla tradizione, anch'io come diceva il dottore Zegovesi, anch'io alle tradizioni di famiglia, quello che metteva giù la mia mamma, quello che metteva giù il mio papà, e quindi a questi classici che sono appunto, come si diceva, per esempio il tacchino ripieno, ecco queste cose qua. Dottor Arzegovesi, Marina ci dà uno spunto e poi vi saluto, ma vorrei proprio fermarmi su questo. Marina ha detto preferisco degustare che preparare, invece nella nostra puntata oggi noi insistiamo: preparate anche se non avete mai preparato, tenete le mani in pasta, tagliate la scarola per fare la scarola bollita, ma usate le mani e vedrete come si accendono aree del vostro cervello che non conoscevate neanche di avere. Quindi rimbocchiamoci tutti insieme le mani, diamoci da fare, addobbiamo la nostra casa, prepariamo i piatti della nostra tradizione, in ogni modo verranno buoni, vero dottor Zegovesi? Sì, anche dicevamo un banalissimo riso in bianco può essere, vi assicuro, una cosa che voi ricorderete come una delle cose più buone che avete mangiato. Non a Natale fate cose più buone, ma anche una cosa semplice. Grazie al dottor Zegovesi che ci ha accompagnato, medicuoco, quasi cuoco, psicocuoco, e alla Marina Marazza, storica e scrittrice. Marina, io vorrei che tu tornassi presto a trovarci per raccontarci del tuo ultimo libro, che ha delle situazioni, direi, molto simili a quelle che stiamo vivendo oggi. Secondino per incuriosire i nostri amici, così intanto che siamo a tavola. Ah, proprio vero, è incredibile come guardando nella storia del passato ci siano delle cose che non cambiano mai, no? E quindi è incredibile come poi tu ti ritrovi nelle situazioni, nelle emozioni, nei sentimenti di persone che sono vissute secoli e secoli prima di noi. Quindi questa è un po' sempre la chiave, no? Un po' la chiave di lettura. Allora, tornerai presto a trovarci? Grazie, molto volentieri. Grazie al dottor Zegovesi. Grazie a voi. Ci sentiamo presto. Buon Natale a tutti. E noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa e poi ritorniamo, perché adesso è arrivato il momento di e adesso cosa mangio? Sai che io ancora esattamente non ho capito. Che cosa, Leonardo, non hai ancora capito? Non ho esattamente capito di cosa parliamo noi qui a Uno, Nessuno e 100 Milan. Parliamo di attualità, ma a modo nostro, dando spazio a tutte le opinioni. Non è vero, diamo spazio solo alle opinioni che ci fanno comodo. Questa è una tua opinione. Sì, certo. Io non la condivido, ma te l'ho fatta dire, ti sei smentito da solo. Sei scaltro. Ti ascolto perché sei scaltro. A che ora cominci? Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 9 fino alle 11. Uno, Nessuno, 100 Milan. Uno, Nessuno, Nessuno, 100 Milan. Sei scaltro. Quasi ti ascolto anch'io. La bufala in tavola. Momento del nostro spazio. E adesso cosa mangio? Ci avete scritto, ci avete mandato messaggi vocali, obiettivo salute @radio24.it, oppure messaggio vocale, ad esempio non avete voglia di scrivere, volete far sentire la vostra vocina all'amico, 335 830 4306. Eccoci qua, oggi abbiamo selezionato due delle vostre richieste che hanno un po' un profumo di Natale e abbiamo invitato per rispondere un grande esperto, un amico della nostra trasmissione, il professor Luca Piretta, gastroenterologo e docente di allergie e intolleranze alimentari al Campus Biomedico di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Mi verrebbe da dire finalmente, perché non è facile acchiappare il professor Piretta, ma noi ce l'abbiamo fatta, perché noi insistiamo, non molliamo mai. Andiamo a sentire che lo mettiamo al lavoro. Panettone o Pandoro? E adesso cosa mangio? Sono in sovrappeso e il lockdown non mi ha aiutato, ma in questo periodo è difficile perdere peso. E adesso cosa mangio per non esagerare? Professor Piretta, la invito a nozze. Alla prima io direi panettone o Pandoro, ma perché questo problema? Mangiali tutte e due. Ma e la seconda io direi, pensaci il prossimo anno. Che dice? Allora, intanto il primo quesito sembrano i soliti dualismi all'italiana tra Coppi e Bartali, no, siamo sempre così. Allora, diciamo che sostanzialmente io sono di un parere molto, di piacere, cioè la differenza tra panettone e pandoro da un punto di vista nutrizionale ci sono, ma sono minime, ne guardano in realtà la quantità di burro presente nel pandoro che è superiore a quella del panettone. Ma ha senso andare così per il sottile? Però siccome Natale viene una volta l'anno... Allora, a meno che ci siano delle problematiche di salute, cioè un diabetico, certo, un ipercolesterolemico può avere dei problemi a prescindere dalla dieta, ma se uno deve fare una dieta dimagrante, non sono i giorni di Natale quelli giusti per farla, può tranquillamente trasgredire e si mangia quello che vuole. Se piace il panettone, mangia il panettone, se piace il pandoro, detto questo, ero pronta per dire professore l'adoro, invece no, mi fa attenzione. Allora devo rimangiarmi Non è che devo mangiare però tutto il panettone, no? Me l'hanno detto, no, ecco, quindi una fetta equivale a un dolce che non può essere aggiunto al cioccolato, al Toblerone, alle nocciole, a compagnia Il professor bella. Piretta non lo invito più, professore, se fa così. Senta, professore, invece, sono in sovrappeso, diceva l'altro ascoltatore, il lockdown non mi ha aiutato, insomma, questo periodo però è difficile perdere peso, infatti lei ha detto non bisogna stare a dieta sicuramente in questi giorni, soprattutto in questi giorni, in questo anno particolare, aggiungo io, ma è lei il prof. No, hai perfettamente ragione Nicoletta, è chiaro che è così, l'anno scorso l'abbiamo sfangata perché il lockdown è arrivato a febbraio, quest'anno ce lo troviamo tra capo e collo nei giorni di Natale dove già i dolci abbondano in casa, diciamo che sfoga le voglie di gratificazione con il cibo in modo più semplice, bisogna adottare alcuni rimedi, uno è quello di cercare di compensare all'interno della giornata, quindi se io prevedo il pranzo di Natale abbondante magari gli altri pasti della giornata sono un pochino più attento. All'interno del pranzo di Natale non mangiamo pane, non aggiungiamo altri condimenti a quelli che già ci sono, concediamoci il piatto che è stato preparato ma eliminiamo il pane dalla tavola magari. E poi possiamo adottare quella che in Piemonte viene chiamata la merenda sinoira, che conosce anche lei, prof, perché anche lei è transitato per Torino. E quindi facciamo, applichiamo quella che già i piemontesi facevano, una specie di semidigiuno. Cioè sì. Mangiamo, facciamo una bella merenda, poi saltiamo alla cena e... Si può fare così, ma infatti l'intelligenza sta proprio nel fare una sorta di organizzazione alimentare, chiamiamola così, cioè se io prevedo che farò il 24 sera, io faccio una colazione buona, poi magari il pranzo mangio un brodo, una minestra, una minestra di verdura. Senta, quindi insomma bisogna un po' attrezzarci, però... Poi l'attività fisica, non dimentichiamoci l'attività fisica, che arriva la bastonata, bisogna fare l'attività fisica, questo non vuol dire che uno mangia... Guardi, professore, lei era andato benino e io volevo farle un regalo, ormai glielo faccio subito perché è un regalo grande anche per me, e dato che siamo tutte e due nati a Torino, vabbè, lo faccio anche a lei, perché noi in linea abbiamo un cantante di cui so che lei è un fan come me e che insomma sono davvero felice di poterlo avere alla Bufala in Tavola. È Marco Masini, buongiorno. Ciao, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Buongiorno. Wow. Senti Marco, allora puoi raccontare al professor Piretta, che insomma ci sente, ci tiene un pochino sempre un po' a stecchino e a stecchetta, che bella iniziativa ti è venuta in mente proprio per Natale, tu sì che sei una persona buona. L'iniziativa è della Nazionale Italiana Cantanti, che da ormai 40 anni si occupa di solidarietà. Sì. E non solo... si occupa direttamente, ma cerca anche di indirizzare i ragazzi, soprattutto quelli che arrivano da noi con grande impegno verso la solidarietà, cioè indirizzare i ragazzi ad avere il senso di responsabilità, soprattutto quelli che hanno raggiunto un discreto successo, quindi una popolarità tale da poter guidare anche certe generazioni. E l'impegno alla solidarietà è una cosa che appunto la Nazionale fa da tanti anni, io ne sono direttore tecnico e di conseguenza questa iniziativa di portare i pasti di un ristorante da Tito, praticamente, che ci ha coadiuvato nell'iniziativa, era un'idea che avevamo da un po' di tempo, l'abbiamo fatta all'ospedale, al reparto Covid di Careggi, per cercare di dare un piccolo aiuto nelle nostre possibilità a tutti gli operatori sanitari, agli infermieri, agli OS e ai dottori e medici del reparto. È una cosa che abbiamo fatto ovviamente in tutta sicurezza, all'aperto, e abbiamo anche come dire, stimolato un po' tutti quelli delle associazioni per contribuire ad aiutare coloro che in questo momento stanno lavorando molto per salvare vite. Hai ragione, è una bella restituzione. Poi secondo me esempi come questo ci aiutano, Marco, a pensare che in questo Natale così particolare, invece che tanti regali, incontri prenatalizi che quest'anno non si potranno fare, ecco, mettiamo sotto l'albero la solidarietà. Devo dire che i ragazzi, soprattutto quelli che arrivano adesso, che sono arrivati da un paio d'anni a questa parte, devo dire che i giovani sono molto attenti alla solidarietà e contribuiscono in maniera decisa, con istinto, e non solo perché gli viene imposto, anzi noto un'anima grande, soprattutto i ragazzi che arrivano dai talent, che avvertono che comunque in questo momento c'è bisogno anche di loro. Quindi ecco, è una cosa che noi facciamo a prescindere. Devo dire che sì, è contagiosa la solidarietà, ci piace. Il professor Piretta diceva, mi raccomando a Natale, e non solo a Natale, esercizio fisico. Professor Piretta, faccia due raccomandazioni anche lei. Io volevo fare un commento, intanto i complimenti per questa iniziativa, come tutte quelle della Nazionale Cantanti, che vedo sempre in prima linea sulla solidarietà, e volevo approfittare, intanto ringrazio anche per gli auguri a tutti quelli che lavorano nel campo medico. Io sono noto come nutrizionista, ma faccio il medico di famiglia e devo dire che stiamo veramente sotto pressione per tutto quello che sta accadendo, e volevo approfittare di questo per dire che la solidarietà parte dall'attenzione allo spreco. e questo è un periodo in cui bisogna stare molto attenti e imparare a fare la spesa, perché l'alimentazione parte dalla spesa. Allora contiamo bene chi abbiamo a tavola, non compriamo tanto per comprare, che poi si butta una marea di roba sotto Natale. Bravo. La solidarietà, secondo me, parte anche da questo. Parte anche da questo. Vedi che ho fatto bene a farle il regalo di farle incontrare Marco Masini. Marco, qual è il piatto tuo di Natale? Questo devo dire che non è mai stata una priorità, il piatto, diciamo, che soddisfa più la gola piuttosto che il fisico, perché amo mangiare bene, cercare, io credo che l'alimentazione sia importante. In assoluto il primo, sì, la benzina efficace alla nostra salute e al nostro motore, quindi ovviamente la benzina deve essere ben filtrata e deve essere pulitissima, certo. altrimenti ovviamente e il motore si ingrippa, certo. Allora Marco, auguri, complimenti a tutti voi della Nazionale Cantanti, complimenti anche al mio professor Piretta, buon lavoro professore, grazie. Un augurio a Marco, grazie. Auguri a tutti, grazie mille. E grazie a voi, ad Andrea Roccabella in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Che dire, noi ci sentiamo domani alle 6:15, insomma, sono sempre qua. Buona giornata.